dove appunto c'è questa dimensione quasi sognante che richiama anche molto, soprattutto nella parte finale, sicuramente la scuola di Canterbury e certe dimensioni sonore figlie appunto della fine degli anni 60, e dunque un'atmosfera assolutamente magica che caratterizza l'intero album, che è sicuramente un disco sempre da riascoltare con piacere, senza avere quegli echi di nostalgia canaglia che spesso attraversano i cultori di certe musiche degli anni 70. Qua è ancora molto vivo lo spirito di Enrico, che poi non dimentichiamo aveva anche all'interno del progetto musicale uno spirito politico estremamente caratterizzato da dinamiche antagoniste, molto vicino anche a movimenti a noi sicuramente cari, vicini appunto, anche se ripeto questo termine, qualcuno ha anche scritto che certe scelte piuttosto radicali, soprattutto di Fred Frith, soprattutto il movimento politico che poi ha caratterizzato la sua figura, cioè quella di Rock in Opposition, aveva portato anche gli Enrico a trovarsi in situazioni di grosse difficoltà economiche, però insomma certe scelte stilistiche poi non credo possano essere state dettate solo da questo. E qui apriamo l'universo successivo, sì, no, a questi due album, caratterizzata dal terzo, che è particolare perché segna una svolta in evoluzione di questo progetto, di questo collettivo, perché qua possiamo veramente parlare di collettivo e con piacere. E dunque a questo punto, dopo Unrest del 1974, si apre appunto il terzo disco, che è un disco estremamente importante per l'apertura che lo connota nel 1975. Esatto, beh, è un periodo, come dicevi appunto, piuttosto particolare. C'è una situazione che comunque è difficile, c'è anche tra l'altro l'abbandono di Jeff Lake da parte appunto sua, abbandonerà Enrico per andare a trovare anche buone sperimentazioni, soprattutto come strumentista in varie situazioni, insomma, anch'esse decisamente importanti dentro il mondo della ricerca, ma soprattutto la nascita del Rock in Opposition crea quella situazione più larga che, se vogliamo appunto, è chiaro che comporta anche come dire delle spese proprio in termini anche materiali, no? Oltre che come dire spendersi politicamente e anche proprio in termini di fruizione differente, artistica e creazione anche di un altro modo di intendere il progetto musicale. E quindi la fusione con Sly Pepi nasce in questo periodo di particolare fervore di Enrico. Entrano quindi nella formazione storica di Fred Frith e Jeff Lake, perché però appunto se n'era appena andato, di Tim Hawkinson e di Chris Clutter, i tre Anthony Moore, Dagmar Krause e Peter Bregvad di Sly Pepi. Sly Pepi che è più connotato su uno stile di espressionismo con appunto anche vagamente surrealiste di musicalità, di cabaret, portato a un suono anche decisamente paradossale in alcuni momenti. E Desperate Straight, disco del 75, cerca di unire e quindi la sperimentazione già piuttosto solida di Enrico, di appunto Legend, di Unrest, con questo mondo decisamente stranito, tanto per citare delle meccaniche diciamo espressioniste care a Brecht, d'altronde la Dagmar Krause, cantante vocalist, da sempre è stata interessata al linguaggio appunto sperimentale di Brecht, di queste strane meccaniche, l'estraneazione, a momenti anche di vero e proprio delirio, non nel senso insomma di moda che ha preso il termine, ma proprio di delirio lì in studio, ma soprattutto dal vivo, e poi sentiremo appunto anche dei momenti. Andiamo a prenderci appunto da Desperate Straight alcuni passaggi per capire appunto questo momento che poi darà veramente vita a mille formazioni e seminerà fino ai nostri giorni, se pensiamo a tante cose della REC, RARE e della Recommended Record appunto. Bene, siamo rientrati in diretta, ancora 451 intersezioni, abbiamo ascoltato questi due brani di questo splendido lavoro. Tre in realtà, hai ragione. Non per finta, sì. Costruito appunto con gli Slap Happy, appunto album del 1975, un lavoro estremamente interessante, sicuramente anche differente anche dai due dischi precedenti che abbiamo ascoltato, ed è giusto appunto collegandoci a questi tre brani dall'album del 75 con gli Slap Happy, ricordare anche l'appuntamento importante, anche se siamo abbastanza distanti ancora da questa data, ma abbiamo fatto la puntata 0 di 451 intersezioni dedicate a Rico, principalmente chiaramente come dedica Pier Antonio Petzing, ma anche per ricordare un concerto che appunto vedrà gli Rico and Others, Play Music of Lindsay Cooper, che sarà domenica 23 novembre alle ore 19 al Teatro Diego Fabbri a Forlì, organizzato anche dall'area sismica. È importante, anche se siamo molto distanti, poi sicuramente come 451 frammenti sonori faremo una puntata a ridosso, diciamo, dell'appuntamento. Sì, probabilmente anche come 451 intersezioni abbiamo, diciamo, un doppio rimando per essere vicini a questo grosso, a questa grossa data, a questa importante data. Ci saranno grandi nomi in questo concerto: Rico and Others, Chris Cutler, John Greaves, Phil Milton, Tim Hutchinson, Zina Parkins e ovviamente Fred Frith con Dagmar Kraus. Dunque, insomma, formazione con tanti nomi eccellenti, sicuramente un appuntamento da non perdere. E chiaramente, rimanendo appunto sempre all'interno della storia di Rico, siamo verso, diciamo, ci allontaniamo sempre di più dagli anni 70, arriviamo al 2014 in termini di tempo, perché incomincia a scarseggiare, dunque dobbiamo velocizzare. Sì, arriviamo al 2014, poi in realtà non proprio 2014, ma arriviamo al 2009, facciamo il giochino con l'uscita del disco, un disco che raccoglie vari momenti di inediti appunto di Rico a Co Cabinet of Curiosity, e qua tra l'altro si sente anche molto bene Lindsay Cooper, che prima non abbiamo ricordato, ma di fatto, insomma, entrerà a pieno diritto anche come appunto soggettività, forse avrebbero detto all'epoca, ma possiamo dire anche adesso, politica, militante e appunto avanguardistica, se non che sperimentale e quant'altro, se non appunto non carichiamo troppo la faccenda, perché sennò poi rischiamo di andare quasi su una forma di paradosso, ma forse anche quello, perché si giocava anche con forme paradossali, come d'altronde in questo pezzo, e qua lo scratch continua. Secondo me Nichetti, non so se qualcuno si ricorda, Maurizio Nichetti, quando faceva delle cose delirantissime negli anni 70, c'erano i gruppi a sinistra dell'Altra Domenica, lui interveniva durante l'Altra Domenica, trasmissione splendida di una televisione ormai completamente defunta, nella Rai 2, in un orario oltretutto di domenica pomeriggio in contemporanea domenica in, una cosa veramente allucinante, e faceva sti inserti all'interno dell'Altra Domenica con questi rumori e queste interruzioni. Secondo me lui, che forse è rimasto, è rimasto nelle onde radio, sì, ecco, senti, ecco, vedi che ha risposto, concludendo in questa maniera, insomma, sua sonna di così per spernacchiamenti macchinici, Lover of Gold, pezzo che apre di fatto a un ascolto diverso di Rico, e quindi a un momento improvvisativo anche proprio rumorista, che appunto Carter, Kraus, Frith, Greaves, Cooper e Hutchinson crearono, per anche proprio aprire un linguaggio che mai è stato domato fino all'ultimo. Poi appunto, quando tratteremo la seconda parte di Rico, ritroveremo insomma anche momenti addirittura che aprono certa wave, come attitudine addirittura certo punk, sembrerebbe quasi un ossimoro che un gruppo di Canterbury arrivi addirittura a quei momenti, ma tant'è che insomma Rico ci arrivarono, e come. E appunto per dare come dire il commiato di questa puntata zero. Puntata zero a tutti gli effetti, perché siamo veramente in costruzione qua, più che anzi work in progress, ma anche un po' decostruiti, ma va bene, dai, va bene. Basta non continuare su quella linea, però va bene, la prima è zero. È zero. Siamo zero anche un po' zero noi. Più zero. Zero più zero fa zero. Fa zero. Zero meno zero. Zero. Zero per zero. Zero. Zero. Punto zero. Sempre zero. Sempre punto zero. Vabbè, ricordiamo agli ascoltatori che adesso dobbiamo un po' capire anche in termini di organizzazione radiofonica. Comunque, lo spazio di 451 intersezioni sarà i primi tre lunedì di ogni mese, dunque ci ritroveremo lunedì prossimo dalle ore 20. E invece ricordiamo anche comunque la prima puntata di 451 frammenti sonori, prossimo mercoledì da mezzanotte in poi. E dunque ci saremo tutti e due per l'apertura di questi due spazi. Con che cosa? Con Echi dal passato. Ecco qua, gli Echi dal passato. Sì. Non fare battute, no, passato, presente, futuro, ma non importa, perché poi vorremmo fare anche echi dal futuro, ma anche echi dal presente. Echi dal futuro, però, e gli echi del presente sono proprio sti suoni che sentiamo, no? Tipo pernacchie digitali o analogiche. A secondo me, se continuiamo così, tra il saluto te esce un pernacchione. Secondo me, esce un quei pernacchi. Sono contento, va bene, ma sì, come diceva Man Ray, anche le pernacchie fanno parte comunque dell'avanguardia. Stiamo scherzando, anzi, spernacchiateci. Okay. E vi rimandiamo quindi a mercoledì a mezzanotte. Fate i bravi, mangiate bene adesso che è ora di cena, avete digerite. Tu hai già mangiato. Io ho già mangiato. Più nordico, non ti dico che cosa, perché se non ti viene male. No, se no, altro che rospo. Comunque, buona serata e un saluto da Max Macchia. E da Eliseo Scarpa, ovviamente. Dover Gold, Erico.